Ma io vorrei fare una piccola testimonianza rispetto alle cose che dicevi tu, Gianluca, questa mattina. Io credo di essere cristiano perché negli anni 70, subito dopo il periodo dell'adolescenza, ho avuto la possibilità di sperimentare un tipo di chiesa come hai prospettato tu. Piccolo gruppo, tutti si conoscono, che si riuniscono attorno all'Eucaristia a livello domestico in una casa, no? È in questo contesto, tra l'altro, che ho conosciuto Margherita e che poi ho deciso di sposare. Abbiamo deciso di sposarci. Abbiamo deciso di sposarci. Cioè, nel momento dell'adolescenza, tu quando esci dall'adolescenza metti in discussione un po' tutto, no? Giustamente, insomma, no? E avere la possibilità di incontrare delle persone che ti aiutano a ripensare le cose che ti sono state dette da quando eri bambino, eccetera, eccetera, e a fare delle esperienze del tipo esattamente di quello che diceva Gianluca stamattina, per me è stato veramente fondamentale. Questa esperienza io l'ho fatta all'interno della casa di Carlo Carlevaris, che è stato uno dei primi preti operai italiani di Torino, che mi ha segnato praticamente per tutta la vita, insomma, no? E mi è molto piaciuto nell'intervento di Ferretti, che ha sottolineato l'aspetto positivo dell'attività pastorale di Don Giorgis nel credere nel curare la formazione anche all'interno di piccoli gruppi, no? Proprio perché stiamo attraversando un periodo talmente complicato che non si può più vivere di tradizione, bisogna proprio rivedere tutto da capo, insomma, no? Quindi questa la casa della parola, la casa della parola, questa sottolineatura che tu hai fatto della dimensione domestica della Chiesa, secondo me è veramente una cosa importante. Io probabilmente qualcuno dice che questo potrebbe essere anche la Chiesa del futuro, no? Con la secolarizzazione sempre più galoppante, con l'abbandono della Chiesa da parte di moltissime persone, quindi ecco, questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa, mi è molto piaciuto quello che hai detto tutto mi è piaciuto, ma soprattutto alcuni punti. Vorrei sottolineare questo qui della pluralità. Cioè, nella Chiesa, la Chiesa deve avere il coraggio di mettersi in ascolto di tutti. Cioè non solo di coloro che dicono sempre sì, ma anche di coloro che la criticano, coloro che i dubbiosi, addirittura gli atei, quelli che dicono di essere atei, no? Perché deve essere così? E mi sembra che su questo punto Papa Francesco sia veramente all'avanguardia da questo punto di vista, non ha paura di confrontarsi con nessuno. Pensiamo solo ai primi atti che aveva fatto con Scalfari, con queste persone che dicono di essere non credenti, suscitando critiche da parte degli ultraortodossi, eccetera. E ho visto per esempio che in questo lavoro che tutte le chiese, tutte le comunità dovrebbero fare sul tema della sinodalità, nella relazione finale che i vescovi dovrebbero redigere per mandare a Roma, c'è scritto: diteci non solo quando i vostri fedeli sono d'accordo con voi, ma diteci anche quando non sono d'accordo con voi. Perché non sono d'accordo con voi? ma non solo i credenti, diteci anche se riuscite a relazionarvi con gli atei, diteci che cosa gli atei dicono della Chiesa, cioè quest'idea di non avere paura del dialogo, del confronto e del pensare che possono arrivare cose positive anche da agnostici o da gente che la Chiesa l'ha abbandonata, insomma, no? Quindi appunto questo discorso qui della pluralità mi ha fatto pensare un po' a questo aspetto qui, ecco le due cose che volevo dire per il momento. Considero la relazione di Gianluca di stamattina veramente molto molto coinvolgente, mi richiederebbe, se poi dovessimo parlare della riforma della Chiesa in questo senso, puoi capire. Però insomma sono contento che anche i teologi siano su questa linea, insomma praticamente tutte le persone che abbiamo incontrato questi anni ci hanno fatto capire che bisogna andare in quella direzione lì, insomma. Forse facendo questo riusciremmo a relazionarci con le nuove generazioni, perché le nuove generazioni non possono più accettare quello che abbiamo accettato noi quando eravamo ragazzini, c'è poco da fare. Finito. Rispetto al tema della pluralità, non so se mi sono distratta, ma non ho capito il senso della profezia. Me lo sono perso, poche parole vorrei solo recuperare questo buchetto. Ancora uno, poi Gianluca risponde. Ma tu sei, se non ho capito bene la funzione, nell'azione cattolica, no? Assistente sì, sì, del settore giovani. Ecco, noi se guardiamo l'azione cattolica è qualcosa che sembra archeologia proprio. Vi spiego alcune... Oltretutto se andiamo a vedere che cos'era ai nostri tempi, era una sorta di organizzazione, un esercito, certo. Non so come dire, ecco, militare quasi. Prima del concilio, sì. Prima con tutte le varie categorie, le suddivisioni, sì, sì, sì. E poi insomma, un controllo tremendo, no? Cosa che ovviamente ha portato a disamorarsi verso questa organizzazione. Ecco, che senso ha oggi questa cosa? Perché tra l'altro non se ne sente parlare, sembra che non esista più, in realtà appunto mi ha stupito un po' questa cosa. No, grazie. Posso solo fare da contrappunto. Io sono cresciuta in Nazione Cattolica. E ho vissuto delle cose, ho vissuto delle esperienze molto belle perché ho incontrato delle belle persone e nonostante tutto, naturalmente poi sono cambiata, eccetera, no? Però io ho contribuito anche a demolirla, cosa che ho fatto volentieri, poi sentendo anche il peso della responsabilità di non aver saputo costruire nient'altro, niente di me, niente di più, niente di meglio. Quindi ho preso il piccone a un certo punto, però devo dire che io, al contrario forse di altri, forse perché sono stata particolarmente fortunata, e fra l'altro anche ci sono entrata quasi casualmente, è stata veramente una delle grazie della mia vita che mi hanno portato poi così da bambina a prendere io questa decisione di entrare così per curiosità e poi... E comunque devo dire che nonostante tante pecche e così via, e tanti legami con la mentalità di quel tempo, certamente, io sono grata di aver fatto questa esperienza, ecco. Chiuso. Sì, in realtà era proprio era massimo molto teologia, poi, della sì. Conservazione, della transizione. Perché poi chi gestiva questa cosa erano delle brave persone che non avevano altro da fare e si dedicavano a quello come missione. E, grandi capacità non le aveva, salvo quelle di ripeterti e ribadirti la tradizione, basta, insomma, per cui era un messaggio poco accattivante, diciamo così. Dirò alcune cose, anzi grazie, perché uno dà per scontato, invece vedete che forse abbiamo anche bisogno di scoprire, no? Delle cose che forse magari conosciamo poco, e quindi anzi grazie della domanda, così chiacchieriamo anche un po' di questo e non andiamo assolutamente fuori tema, anzi. Allora, su questa tematica della chiesa domestica, no? Quindi l'essere più piccolo gruppo, no, eccetera. Io ritornerei un attimo sulla metafora della casa, che credo non dobbiamo prendere sotto gamba, come se fosse una cosa che capiamo già, no? Perché da un lato è vero che il termine casa ci sembra essere molto vicino, molto immediato, no? Io però ragiono anche pensando un po' alla realtà giovanile e dico questo, che, e non per smentire tutto quello che vi ho detto finora, però se per una certa generazione dire casa vuol dire una certa cosa, per le giovani generazioni può voler dire tutta un'altra cosa. Questo solo per ricordarci che non è assolutamente una metafora tranquilla. Per quanto, ripeto, il Nuovo Testamento, questo lo possiamo dire, no, ci consegna questo modello di chiesa, quello che appunto noi definiamo domestico, no? Come ho cercato di spiegarvi prima. Però credo che l'importante sia a questo punto soffermarci in modo molto profondo su che cosa sia casa. Perché paradossalmente oggi la casa potrebbe anche diventare una difesa. È un paradosso, eh? Però c'è anche una gran fetta della realtà giovanile che coglie la complessità del momento presente e tende a chiedere, a chiederci più una difesa che non un accompagnamento per vivere. Mi spiego? Una difesa da che cosa? Una difesa rispetto alla complessità della vita. Senza per questo giudicare, anzi, teniamo conto di questo perché oggi la vita è diventata molto complessa, sotto un sacco di punti di vista, non che una volta non lo fosse. E ci sembra strano, no? Perché noi diciamo, con tutti i mezzi che abbiamo, con tutte le possibilità che abbiamo, in realtà oggi è molto più complesso prendere una decisione, andare in una certa direzione, vivere quella pluralità di cui vi dicevo. Non a caso, soprattutto in contesto giovanile, certe ideologie ritornano, come dire, osservo la vita, sta diventando molto complessa, per favore dammi due o tre indicazioni per cui io possa difendermi bene e stare tranquillo. Non dobbiamo però giudicarlo questo, mi spiego, intanto capirlo. Come mai questo c'è? Perché dico questo? Perché dovremmo intanto ritrovare il senso della casa non come un nido, cioè come una difesa che poi di fatto ti fa dire ok, tra le mie quattro mura sto bene, tanto il mio computer, capite? E il mondo intero mi può arrivare tranquillamente stando chiuso in casa. Attenzione, perché dopo 2 anni di pandemia c'è già l'esperienza di adolescenti che hanno deciso di non uscire più di casa, Ma chi ne parla di questo? Pochi o nessuno? Allora, quando noi parliamo di chiesa domestica, occhio, perché dovremmo rimettere sul tavolo il senso di che cosa sia davvero la casa. E la casa che cos'è? Io lo direi in 3 modi. Primo, è il luogo in cui ci è stata data la vita come un dono, perché la vita l'abbiamo trovata, non l'abbiamo inventata noi. Secondo, è stato, è il luogo, in bene o in male, delle relazioni in cui abbiamo imparato a non essere figli unici. Questo è un problema, in tempi di famiglie sempre più piccole, in cui già a livello di sangue fatichi sempre di più a uscire dalla mentalità del figlio unico. Questo è un problema, Mentre la casa dovrebbe essere il luogo in cui ti forgi, in cui la pluralità, no, eccetera, non la senti come minaccia, ti dà anche fastidio, no? Fino al giorno prima avevi i tuoi giocattoli, poi arriva il fratellino, la sorellina, che bello, che meraviglia, però mamma, adesso può ritornare di nuovo nella tua pancia? Perché adesso basta, Adesso voglio di nuovo tutto io, Capite? L'invidia, la gelosia è un passaggio fondamentale. Però senza vivere questo, c'è anche chi vive fino a 90 e più anni con la mentalità del figlio unico. Il dittatore chi è? È uno che forse non è mai diventato fratello. No? E pensa di avere tutta la stanza per sé. Ma soprattutto la casa, credo che sia così, poi ditemi, dovrebbe essere quell'ambiente che non trattiene, ma a un certo punto la porta di casa si apre. Se la casa ha funzionato abbastanza bene, quello è stato un grembo che non ha trattenuto, ma ha generato. Cioè ci ha permesso di avere quelle condizioni che un giorno ci hanno detto ce la posso fare, adesso cammino con le mie gambe, prendo in mano la mia vita. Allora, se noi oggi rifacciamo questo lavoro, allora comprendiamo meglio anche il senso di quello che dicevamo. Cioè, soprattutto con la realtà giovanile, questo non deve essere mai dato per scontato. Come dire, se tu trovi casomai nella Chiesa, a differenza, no, di cosa dicevi, una sorta di difesa, no, guarda, non hai capito nulla, Se questa è una casa, è perché tu possa vivere, non perché tu possa essere difeso, essere trattenuto. Questo cambia molto, no? Cioè ci può essere un modo di pensare anche il piccolo gruppo, che sono d'accordo, sicuramente, e quello è il futuro, no? Ad un patto che non diventi un'elite. Per, io dico vostra generazione perché io ho 46 anni, quindi sono un po' di generazioni prima, ma sono già molto vecchio rispetto ai giovani che seguo, quindi sono lì a metà. Ma se per la vostra generazione questo era normale, che appunto la ricerca era vado, appunto non ce la faccio più, mi soffoca questa cosa, mi libero, no, adesso devo... Oggi guardate che è molto più complesso il discorso. Cioè c'è il rischio che ci diciamo la stessa cosa, ma che una certa realtà intenda il piccolo gruppo come un'elite. Cosa che non è giustamente cosa avete, abbiamo in mente, no? Ma solo per dire che, non so se mi sono spiegato, cioè la cosa è più delicata di quanto pensiamo. Quindi, bene il gruppo, più piccolo, più no, l'importante è che ci rendiamo conto che questo non deve mai essere l'elite. Il nido e gli Atti degli Apostoli su questo anche sono interessanti, perché la Chiesa delle origini ha sempre resistito a diventare l'elite, il gruppetto dei perfetti, solo noi, ok? Perché lì sarebbe una forma di casa che trattiene. I cristiani si sono allontanati, per esempio, dai riti di iniziazione pagana, no? Di questi culti misterici in cui c'era tutta quanta un'iniziazione che era per qualcuno, non per altri, no? Queste robe qua. Proprio per indicare che la casa doveva essere il luogo di tutti e dunque anche il luogo aperto, non ciò che diventa nido o trattiene. Quindi su questo sicuramente il futuro sarà quello, a patto che l'essere in pochi non significhi però, come dire, un'identità che torna ad essere elitaria e quindi esclusivista, dunque il contrario rispetto a ciò che ci dicevamo stamattina, va bene? Perché la pluralità? Sì, non mi sono fermato perché poi avevo fretta, quindi vi ho spiegato male le cose. Avevo messo il termine pluralità insieme a profezia, no? Anche per questo motivo va un po' in questa direzione, no? Cioè qual è la vera profezia, cioè qual è la vera novità? Il fatto che in un mondo che rischia di renderti, come dire, azzerato, perché c'è una fortissima omologazione, e riscoprire che il senso originario della Chiesa è invece permettere a ciascuno di essere ciò che è, dove appunto la pluralità non è il caos, mi spiego? No? Ma dove ciascuno trova il proprio nome, ecco, diciamolo in questi termini, credo che oggi sia una grande profezia. Anzi, mi chiedo se non sia proprio questa la strada che permetta a chi è più giovane e ha davanti una vita molto complessa, dire il fatto che c'è qualcuno che non mi omologa mi fa anche dire che posso uscire. Posso uscire da quella casa che mi tratteneva perché non sono giudicato, non semplicemente perché non sono così, così, cosà o non mi omologo, ma c'è qualcuno che mi dice che con il mio nome, con la mia specificità, posso dire la mia, posso dare il mio contributo. In questo senso dicevo che la pluralità è, credo sia oggi una forma di profezia, in cui ciascuno possa davvero prendere voce e dare il proprio contributo, perché guardate che anche questo non è scontato per niente. Anche a livello comunicativo, no? Chiacchieravamo prima con qualcuno, ormai sei omologato, veramente. Cioè, quanto è facile che un martellamento su una serie di cose produce un pensiero unico. La vera profezia oggi è ancora un giovane che ti alza la mano e dice: ma io su questa cosa sono critico e io la penso così, possiamo confrontarci? Bene, bene. Vuol dire che stiamo scalfendo quella roba là, no? Di mi chiudo in casa, basta. Non sto giudicando ovviamente la realtà giovanile, anzi dobbiamo proprio capirla e andarle incontro in questa direzione. No, quindi da un lato scoprire questa domesticità, riscoprirla, a patto che sia però chiaro questo punto. Potremmo ritrovare di nuovo la bellezza di quelle parole molto forti, anche un po' burbere, di Gesù, no? Quando dice, non si fa molta pubblicità, no? Anzi, quando dice, chi vuol venire dietro di me si ricordi che il figlio dell'uomo non ha neanche dove posare il capo, no? Non nel senso che non abbia una casa, infatti Gesù lo ritroviamo sempre in casa, no? Che mangia, beve, condivide la tavola, no? Ma probabilmente il suo dire è, se tu cerchi soltanto una difesa, occhio, perché vuol dire che stai cercando ciò che non ti dà la vita. Sarebbe un'illusione questa, sarebbe una sorta di droga spirituale. Ecco, quindi questo, anzi grazie delle domande, perché forse l'ho dato un po' per scontato, no? Quindi quella è la direzione, teniamo conto che la Chiesa, ad essere la grande Chiesa della cristianità, che non dobbiamo rimpiangere, o che sia la Chiesa del piccolo gruppo minoritaria, ha comunque sempre resistito, di più, di meno, va bene, la storia è complessissima, ma quando riscopre la scrittura ha sempre resistito ad essere un'elite. C'è il gruppetto chiuso che si guarda un po' l'ombelico, dice tanto noi la pensiamo tutti allo stesso modo, che bello essere qui, no, evviva. Anzi, il ritrovarsi così dovrebbe darci ancora di più la spinta a uscire, andare, a condividere, a ospitare. Quello poi è il senso effettivo della Chiesa domestica. Ecco. Intanto che pensate a altre domande, eventualmente qualcosa sulla C. Forse si può avere in mente una certa storia dell'azione cattolica. Quella a cui facevate riferimento è la prospettiva preconciliare, cioè ciò che è stata l'azione cattolica fino al Concilio Vaticano II, che in realtà però, attenzione, è stata, come dire, molto più profetica di quanto si pensasse, perché non solo la CIE, ma tutto quello che è l'ambito associativo laicale della Chiesa negli anni 40-50 ha in qualche modo anticipato quella che sarà poi la grande tematica della corresponsabilità dei laici nella Chiesa. Certo, con quella prospettiva non poteva che essere quella, cioè della cristianità, dell'esercito, del Papa, ok? Perché qui siamo prima del Vaticano II. Credo che la C abbia fatto una bella storia, e cioè, non so se vi ricordate di Vittorio Bachelet, che è stato il grande fautore, laico, grande laico, fautore del grande rinnovamento dell'azione cattolica alla luce del Concilio Vaticano II. La CIA ha compiuto questa grande opera, a mio parere davvero meritevole, e cioè, non lo dico perché sono assistente, ma proprio dal punto di vista storico, cioè di bagnarsi totalmente dentro le acque del Concilio e uscirne totalmente rinnovata. Quella che fu, ed è, continua ad essere oggi, la cosiddetta grande scelta religiosa che fece l'azione cattolica, soprattutto dal punto di vista politico. Non nel senso del collateralismo, ma nel senso della formazione laica delle coscienze per quanto riguarda anche l'ambito sociopolitico. Voi tenete conto che il nostro Presidente della Repubblica è nato in ambito associativo, come fu Aldo Moro, per esempio. O tutta questa classe politica che sapeva molto bene la distinzione sanamente laica delle istituzioni laicali, delle istituzioni ecclesiali, ma che è stata formata dentro quei famosi corpi intermedi che noi abbiamo tremendamente perso nel corso di questi ultimi 20 anni. Allora, se uno forse ha in mente un po' quella realtà, oggi ciò che l'azione cattolica è, peraltro anche molto minoritaria, ma questo le fa bene, non ha più nulla a che vedere con quella stagione. È vero che qui in alcune nostre diocesi è davvero così minoritaria quasi da essere sparita. Ma in realtà oggi l'azione cattolica è una realtà interessante, laicale, e che rimane laicale, questo è molto interessante, cioè io sono assistente prete, non ho assolutamente l'ultima parola in associazione, io sono assistente, ed è un'esperienza interessantissima per il ministero, perché sei veramente alla pari. E quella realtà laicale ricorda a noi preti, a tutta la Chiesa, anche se insomma non è più, insomma non ci sono più le folle, eccetera, che la vita laicale non si gioca semplicemente, con tutto rispetto, attorno al campanile, ma che la formazione della coscienza cristiana, che non è mai invadenza della società, non è l'esercito, ma è mediazione della coscienza, si gioca nelle esperienze quotidiane della vita. C'è poi il settore giovane di ACI, che è interessante perché ciò che succede a livello associativo è estremamente educativo, perché educa alla partecipazione, educa alla sinodalità. Vi faccio un esempio: la scorsa settimana ero a Bergamo perché il movimento studenti di ACI, MSAC si chiama, Movimento Studenti di Azione Cattolica, di cui è stato parte anche Mattarella negli anni 70, fa una pastorale d'ambiente, cioè vive il proprio percorso nelle scuole. Qui parliamo delle scuole superiori, e lo scopo non è quello di scimmiottare i gruppi giovani in parrocchia, è proprio un'altra cosa, è essere chiesa dove sei. La scuola non ce la inventiamo, la scuola è un luogo che appartiene a tutti, è un bene comune, non è un bene del cristiano o di un altro o dell'altro. Gli studenti di dentro che cosa fanno? Cercano di vivere al meglio all'interno della scuola. Per esempio, in questi campi che abbiamo fatto, loro si sono rapportati con le istituzioni del luogo, cioè capite, 17enni, 18enni, io ero lì a prendere appunti, mi sono piazzato lì e prendevo appunti. Questi hanno invitato a questo convegno assessori, amministratori locali, assessori regionali, eccetera, e hanno cominciato a parlare del tema scuola. Quindi cosa fa la politica per questo? Come ci possiamo ascoltare vicendevolmente? No, poi nei gruppi, nei laboratori, come possiamo gestire un'assemblea perché i temi siano adeguati, perché sia partecipata? Quella è la testimonianza che loro stanno dando come giovani laici, ma proprio laicissimi, dentro il loro contesto culturale, scolastico, in questo caso. No? Cioè, a me sembra un lavoro estremamente interessante, più ancora che nei contenuti, proprio nella modalità, nello stile. Per cui ciò che avviene lì non è qualcosa di intraecclesiastico, va bene? Ma è un esercizio interessante di laicità e soprattutto di partecipazione. Cioè che ci sia una realtà ecclesiale, questo mi sembra interessante, che proprio come Chiesa fa questo a favore di tutti, non dicendo venite tutti da me, ma sono io che sto dentro le cose di tutti e lo faccio come Chiesa e come laici, interessante questo, mi sembra estremamente interessante. Non è l'unica realtà che fa questo, mi sembra che abbia delle cose da dire. Anche perché, cos'è accaduto negli ultimi 30 anni nella Chiesa italiana? È accaduto un paradosso, che invece di sottolineare queste prospettive interessanti, no, di una realtà associativa laica, anche non associazione, dico, usiamo quel modello, poi le modalità possono essere molto diverse. È interessante che ci sia qualcuno che anche attraverso un'appartenenza più specifica lo esprima, no? Non è che tutti devono prendere la tessera della C, mi spiego? No? Però ci sono alcuni che lo dicono a favore di tutti. La Chiesa italiana ha scelto un'altra strada, molto clericale, soprattutto dagli anni Ottanta in poi. Forse questa la conoscete di più. Sono i famosi uffici diocesani. L'ufficio della pastorale giovanile, non so se avete sentito queste cose. L'ufficio catechistico. L'ufficio. Allora, alla CEI ci sono tutti questi uffici a livello nazionale che producono, fanno i documenti e poi a cascata le varie diocesi, uffici. Che di per sé all'inizio parlavano la lingua della comunione, no? Come dire, questo è al servizio di una chiesa conciliare, no? Dove tutti possiamo... In realtà non è così, perché quegli uffici sono tremendamente clericali e chiedono alla realtà laicale una collaborazione che significa essere il factotum degli uffici. Chi arriva da una certa vita associativa, ripeto con tutti i limiti che ha, adesso non sto facendo la pubblicità, ma è interessante che abbia invece custodito il fatto che la partecipazione ecclesiale non è fare il factotum della gerarchia, ma un po' come state facendo voi, cioè mettersi attorno a un tavolo e diventare corresponsabili del pensiero della Chiesa. Cosa hanno fatto quei giovani adolescenti che si sono messi lì, noi col movimento studenti, e non è che è venuto il prete a parlare della scuola, capite? Si sono messi loro, di loro iniziativa, a realizzare qualcosa. Ci sentiamo partecipi di questo processo ecclesiale che avviene insieme. È un paradosso perché avevamo una storia uscita dal concilio, peraltro, che avrebbe potuto rinnovare la Chiesa in un certo modo, è vero che dagli anni Ottanta in poi, almeno dal punto di vista ufficiale, tutto questo abbiamo rischiato di perderlo. Tant'è che è interessante, molti di noi, sentendo anche magari determinate sigle, eccetera, giustamente hanno un'idea di una modalità passata, perché è ovvio. Vedete, quando poi le cose si interrompono, giustamente uno pensa a qualcosa di passato, no? Perché non hai più l'esperienza reale, concreta. Noi in Diocesi di Alba abbiamo una realtà associativa abbastanza ampia e vivace e questo ha permesso, ripeto, anche con tutte le perfettibilità del caso, di mantenere una vivacità, no? A livello culturale, a livello ecclesiale di base, estremamente interessante. Credo che questo anche dal punto di vista sociopolitico, insomma, noi se no viviamo da un lato in un contesto in cui sembra che il cristianesimo non abbia più nulla da dire dal punto di vista sociopolitico, ecco l'intimismo, no? Dove il piccolo gruppo diventa questa roba un po' spiritualizzante, no? Ma che non ha un'incidenza effettiva. O dall'altra parte ti arrivano, sapete chi, no? Dobbiamo fare il partito cattolico. Cioè, queste robe qua. Cos'è che ci manca? Appunto, è quei corpi intermedi, anche molto equilibrati, in cui tutto si gioca sulla formazione delle coscienze. E dove forse lì non si può, come dire, cogliere che la realtà ecclesiale, di cui vi dicevo prima, vedete, la prossimità, l'ospitalità, ha un risvolto politico, perché no? Politico nel senso alto di questa parola, sociale, no? Un vivere insieme che ha poi un riscontro particolare, no? Capace, come dire, nel silenzio, nella quotidianità, di ricostruire un tessuto, un modo di essere. Attenzione, non perché tutti debbano entrare nella chiesa, questo sarebbe il vero problema, ma semplicemente per metterci al servizio di questa umanità che Dio ama incondizionatamente, no? Ecco, questo è un po' il lavoro che si fa in AC, ecco, solo per, grazie della domanda, no? Perché poi ripeto, con tutti anche i limiti che ci sono lì, no? Ci mancherebbe, è un'esperienza interessante. E ve lo dico anche come prete, perché è un bel esercizio di umiltà, perché anche la figura dell'assistente, ripeto, non è quella del direttore di un ufficio diocesano, che alla fine, sai, ho tutto sotto di me. No, anche la parola assistente è interessante, no? L'associazione rimane laicale, noi non prendiamo la tessera come preti. Bello questo, perché l'associazione rimane laicale, l'ultima parola non ce l'abbiamo noi. Questo è interessante. In un momento così particolare della Chiesa, penso che ci sia una storia lì che può avere delle cose da dirci, ecco. Ripeto, non perché debba esserci quello e basta. Quel modello lì, in qualche modo, forse può essere anche, come dire, sorgente di altri modelli, di in fin dei conti anche ciò che voi state vivendo è a suo modo, no? Una vita, una realtà associativa, non solo a livello giuridico. Cioè, per me queste realtà, come la vostra, la C in senso più ampio, perché ha una storia, va bene, no, ma dovrebbero essere messe molto più in rete, molto più in rete, perché danno il senso, come dire, di un confronto reale. È lì che si scalfisce lentamente il clericalismo, che può essere anche dei laici, attenzione, cioè, la cosa è molto trasversale, ok? Non è legata solo a noi don, insomma, è un po' un gatto che si morde la coda, evidentemente, è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme. Non so se ho risposto, ma non posso in poche battute dire tutta la storia dell'associazione, però ecco, per dirvi anche un po' cosa si fa, cosa si vive dentro un contesto di questo genere, ecco. Ricorda un po' lo spirito dello scautismo. Infatti, certo, anche con delle, per esempio, una cosa interessante, noi a livello nazionale siamo molto legati agli scout, per esempio abbiamo fatto delle riflessioni insieme a livello educativo, a livello di associazionismo, è uscito anche qualche piccolo documento, ma molto semplice, ma perché ci interesserebbe che a cascata, ben al di là del livello nazionale, anche nel luogo più sperduto della nostra diocesi ci sono delle realtà associative. Se diamo noi l'esempio da là, certo, mettetevi insieme, parlatevi, c'è qualcosa che accomuna la vita associativa, no? L'essere insieme in un certo modo, l'essere partecipativi, no? Non semplicemente passivi, ecco, c'è tutta una realtà, una rete che forse ha bisogno di essere più conosciuta e soprattutto di creare comunione, e forse potrebbe essere anche generativa di qualcosa, no? di interessante, di nuovo, forse, ecco. Mi sembra che nel discorso che hai fatto, parlando della C, ci sia molto del problema, dei problemi che ci poniamo riguardo alla Chiesa, tra virgolette, perché effettivamente la Chiesa che ci ha ci ha accompagnati fin qua, con qualche eccezione, per carità, per fortuna, con delle eccezioni anche molto belle e con anche delle cose positive, perché non si può neanche buttare via tutto, ma e si sta arenando, mi sembra, su una, sta andando verso il blocco totale, non so, la mia sensazione è proprio quella, ma non credo solo mia, perché lo vediamo proprio, lo constatiamo. E se deve nascere qualcosa, deve cambiare, ma non è tanto la questione del piccolo gruppo, perché effettivamente ha dei rischi, o quantomeno va un po' capito, perché va capito, sì, certo. Ecco, perché ad esempio una delle cose che io ritengo positive della parrocchia è proprio il fatto che la gente che non si sceglie, esattamente, e quindi si trovano tutte le età, tutte le idee, esatto. Però ha il difetto di essere una roba troppo grossa, dove poi le relazioni si perdono, almeno potrebbe essere forse suddivisa in qualche modo, non lo so. Sì. Certamente così come adesso non riesce a funzionare e tende poi a ricompattarsi su qualcosa di sacrale, che così che appaga forse un po' più i vecchietti, ma che è completamente lontana. Anche una certa frangia, qualche fascia di giovani, ma poca, sempre di meno. Sì, non ho certo assolutamente. Vedo la mia parrocchia, un fuggi, vabbè, sono successe anche delle cose, però man mano che si è tornata, noi avevamo una parrocchia bellissima, è stata così per veramente tanti, noi siamo andati a Novara, abbiamo scoperto questa parrocchia che era unica nella realtà di Novara e dintorni, credo. E poi per una serie di cambiamenti che ci sono stati, ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimissimi anni, è tornata ha perso praticamente tutto, e perdendo praticamente tutto, quello che c'è adesso è, ad esempio, i giovani sono rimasti 2 o 3, ma proprio di numero, qualche famiglia ancora tenta di rimanere ancorata, un gran numero di persone anziane, un piccolo numero, ma insomma anche queste, e si vede che proprio io veramente ho lottato finché ho potuto, adesso sono un po' disarmata, perché non, mi sembra che ci si sia veramente chiusi sempre di più su questa, facciamo i nostri rosari, le nostre robine, che interessano un certo numero di persone, bravissime poi a livello umano, no? Cioè personale, ma che non hanno nessuna prospettiva, finiti loro, finito tutto. Ecco, e mentre se deve ripartire qualcosa, deve ripartire appunto su con un altro spirito, un'altra che deve ritrovare. Forse delle cose, scusatemi se parlo un po' a lungo, ma perché non ho le idee chiare, quindi tendo a perderle. Mi sembrava importante quello che tu dicevi, ecco, fare le cose insieme agli altri, come gli studenti che affrontano delle realtà umane, ma noi ci ritroviamo ad affrontare, abbiamo il problema ecologico, abbiamo questo problema terribile della guerra, il problema della politica in Italia, problema dell'economia, delle difficoltà, della mancanza di prospettiva per i giovani, di non vedere un futuro, eccetera, tante cose, ma e qui siamo insieme, tutti insieme, al di là delle appartenenze cosiddette, identità cosiddette, dobbiamo tutti affrontare questi problemi. Cosa abbiamo noi di particolare? A parte ognuno con le sue competenze, che sono competenze umane, esattamente come altri, ci portiamo quel sovrappiù che però cambia dall'interno, di speranza, di dire che tutto questo ha un senso e ha una, e che niente vada perduto di quel che buono riusciamo a fare. Non è che possiamo dare molto di più, dobbiamo annunciare questa, che noi poi chiamiamo questo Dio che ci vuol bene e che ci garantisce alla fine, ma poi non è che ci dà delle, e se ci ritroviamo insieme per pregare eccetera è solo per riconfermarci in questo lavoro, che però si deve svolgere nella realtà della vita. Non è che dobbiamo, cioè il nostro essere cristiani non è nella chiesa è nel momento in cui ci rafforziamo, ci riportiamo sempre a contatto con Gesù, Ma poi dobbiamo vivere, l'incarnazione significa veramente che è Dio che abbraccia, che sposa la nostra umanità, e questo ci dà la fiducia che questa umanità ha un senso. Okay. Scusate. Franca ti ha chiesto di dire qualcosa sul senso della profezia. Io ti direi, forse perché mi sono assentato nell'ultima parte della tua relazione, la missione umanizzante della Chiesa. Mm-hmm. Questo è un tema a noi particolarmente caro, perché il nostro amico Don Giorgis era solito utilizzare una frase che noi citiamo in tutti i momenti: fa come Dio, diventa uomo. Certo. Tra l'altro Don Giorgis era una persona che è uno dei primi che aveva scoperto la profondità e la profezia del pensiero di Bonhoeffer, il quale Bonhoeffer ha scritto probabilmente nella sua Etica, il libro Etica: un divino cui non corrisponda una fioritura dell'umano non merita che adesso ci dedichiamo. Ecco, a me sembra che questa missione umanizzante della Chiesa sia oggi estremamente importante. Se vuoi dire qualcosa anche su questo punto, supposto che non l'abbia già detto stamattina. No. Sì, gli ultimi punti sono andati un po' veloci, perché insomma mi sono un po' dilungato, ma è di fatto un po' quello che già ci stiamo dicendo. Però credo che qua ci sia veramente, come dire, un ripensamento totale di tutta la nostra spiritualità. Non so come dire, ma noi forse abbiamo ancora in mente l'immagine, appunto, di una spiritualità che significa tendenzialmente uscire dalle cose di tutti i giorni per andare verso l'alto, no? Quindi man mano che mi tolgo da, ecco, la spiritualità sarebbe questo. In realtà, se noi leggiamo la Bibbia dall'inizio alla fine, ci rendiamo conto che il processo è esattamente inverso. I veri grandi biblisti ci dicono che l'uomo biblico ama talmente la vita e la storia da trovarci Dio lì dentro, non uscendo, fino a Gesù. Prendiamo le parabole, il linguaggio parabolico. Cioè, ci rendiamo conto che Gesù, per Gesù, non si può dire Dio se non dicendo è come il seme che cade per terra. Cioè non è una storiellina quella, eh? Gesù vede il regno di Dio all'opera dentro le cose. Questa è la spiritualità dell'incarnazione. In questo senso la Chiesa non può che fare questo, no? E non invece essere al contrario, come dire, una sorta di sovrastruttura o che ti conduce fuori dalla vita. Cioè, in questo il cristianesimo oggi credo abbia un compito davvero fondamentale, che non è quello di dire che brutta questa vita, vedi com'è, fuggiamo, andiamo da qualche altra parte, no? Ecco, la droga spirituale, attenzione, perché è molto ricercata questa roba qua, eh? E noi dobbiamo pur dirci che i nostri compresi, parlavo proprio con loro, i nostri adolescenti, sapete che, adesso io non ce l'ho con lo yoga, non voglio dire, ma questi a scuola, che poi noi diciamo, noi siamo attenti alla laicità, guardate che ci sono tutti questi gruppi delle varie energie, del cosmo varie, ma tranquillamente a scuola fanno fior di lezioni su queste robe qua, eh? fior di lezioni. Noi nelle nostre omelie parleremo di risurrezione, eccetera, quando in testa, nella maggioranza della gente, c'è la reincarnazione. Ma anche con tutta la serietà di questo, non sto sminuendo assolutamente, no? Ma per dirci che su questo forse abbiamo anche un pochettino il compito di lasciar cogliere una sana diversità, che non vuol dire contrapposizione, no? Però ricordarci che l'annuncio del Vangelo è veramente qualcosa di unico, perché a differenza di ogni altra spiritualità, che piaccia o non piaccia, conduce all'umanizzazione, non alla fuga dal mondo. E questo, secondo me, è veramente un contributo che possiamo dare in comunione con tutti, no? Cioè, se c'è qualcosa di veramente fondamentale del cristianesimo, credo che sia questo. Noi oggi, cosa abbiamo fatto un attimo prima su questa tavola? Abbiamo toccato il corpo del Signore. Prendete, mangiate e bevete. Vedete, il massimo della sua presenza in mezzo a noi non coincide con mettiamo le ali e andiamo in cielo, ma coincide con la cosa più elementare che c'è. Il pane, il vino, la condivisione, la fraternità. Non so, non è questo il cammino, il percorso, no? Cogliere che c'è il massimo della spiritualità là dove c'è il massimo della cura, il massimo della condivisione, il massimo della prossimità di vita. A me sembra che ci sia il culmine della prossimità, se ricordo bene Matteo 25, quando avevo fame, mi hai dato da mangiare, ero prigioniero, sei venuto a trovarmi, no, qui altro che, capite, cose, cioè, corpo, no? Corpi che toccano altri corpi e li risollevano. Il Vangelo dice, lì c'è Dio. Oh, sì, proprio così. Non penso sia una roba da poco, no? Quindi quando dico la missione umanizzante della Chiesa, cioè rideclinare il Vangelo, come d'altronde è, in questa direzione, no? Non in maniera moralizzante o spiritualizzante, no, ma come capacità di questo annuncio, di una prossimità di questo tipo, di rimetterti in movimento, cioè di stare dentro le cose della vita in modo profetico. In modo profondo. Questo dovrebbe permetterti di condividere più che puoi questa vita che è di tutti, con tutti. Con tutti, perché altrimenti davvero anche l'esperienza religiosa rischierebbe di diventare una sorta di... una sorta di oppio, no? Giustamente allora quelli che alzano la mano dicono ah, ma lì insomma sono... storielline, no? Queste cose qua, no, tutt'altro. C'è un compito umanizzante che ci fa sentire in comunione veramente con tutti. Però qui credo che sia davvero questione di spiritualità. E la Bibbia è interessante per questo, no? Perché ti racconta di Dio in mezzo a mille sfaceli, no? E guerre, e fratelli che non vanno d'accordo, e omicidi, e su e giù. Poesie meravigliose, i salmi, ma c'è tutto lì dentro. C'è la nostra vita, no? Che non è mai tutta bella o tutta brutta, è quella, vero? È la nostra, no? Fatta di momenti altissimi, di momenti in cui non capisci più nulla, di momenti in cui prechi, e momenti in cui ringrazi, meno male, no? Non vi sembra bello che la Bibbia parli tutti questi linguaggi? Li parla tutti, eh? Il linguaggio della poesia, della musica, dell'invettiva, del diritto, della legge, perché c'è anche questo, dell'autorità, la prosa, la poesia, tutto trovate, tutto, tutto, tutto, tutto. Il ringraziamento, il pianto, il fallimento, la gioia. La ribellione. La ribellione. E non è che Dio, poveretto, sopporta questo. No, no, è proprio lì. Cioè si consegna lì a noi, no? Raccogliendo tutta la nostra umanità. Devo dire che non c'è nulla di noi che è fuori da questa cosa, no? Che non è degna di essere ricondotta al suo senso, al suo significato. No, in questo senso parliamo di umanizzazione, ecco. Adesso magari l'ho fatta troppo grossa persino, ma cioè renderci anche solo conto che in ogni parola che diciamo, in ogni gesto che poniamo, se fatto in un certo modo, quella è già una forma di missione, punto. No? Che ti mette già dentro questa solidarietà di fondo in cui Dio si riconosce, ecco. Posso dire una parola? Sì, mi ero impegnato in questi giorni, ancora tutta la settimana, a meditare sul finale di ogni Vangelo. E ho imparato dal Papa un'omelia del 2021 dedicata al Vangelo di Marco, e dico solo per non dire delle cavolate: Gesù risorto appare ai discepoli più volte, con pazienza consola i loro cuori sfiduciati. Dopo la sua risurrezione opera così la risurrezione dei discepoli. Ed essi risollevati da Gesù cambiano vita. Prima tante parole, tanti esempi del Signore non erano riusciti a trasformarli. Ora succede qualcosa di nuovo e avviene nel segno della misericordia. Gesù li rialza con la misericordia, la loro misericordia, e qui il Papa cambia parola, e loro misericordiati perché possono diventare misericordiosi, eccetera, eccetera. A me è piaciuto questo perché non ha detto niente a questi. Chi ha scritto la finale del Vangelo di Marco aveva capito che insomma qui bisognava inventare qualcosa, perché e Gesù viene lì e non se la prende con nessuno, nemmeno con se stesso, per dire. E queste due parole, misericordiati, per essere misericordiosi, è esattamente toccare i colpi, le difficoltà, i problemi, e non stare lì, darsi qualcosa. Mi è piaciuto, scuso se... E poi altre cose, ma quelle mi sono piaciute. È un filo rosso del Magistero di Francesco questo, se ci pensa quante volte parla di corpo, toccare il corpo del fratello, no? È una spiritualità molto precisa questa, ritorna di continuo. Quindi misericordiati, sì. Oggetto di misericordia, sì. Misericordiosi, soggetto di misericordia. Perché se no si interrompe la metà, sì. Essere misericordiato... Se non ritorna a essere misericordioso, fermi la storia. Quel misericordiato è proprio un suo termine che ha coniato, no? Come siamo un po' abituati a sentire. Neologismo. Sì, esatto, neologismo, no? Per dire se non c'è, sei passivo rispetto a questa cosa perché è un dono, ma contemporaneamente. Non esisterebbe se a tua volta non trasmetti questo, no? È interessante questa dinamica. Un altro termine che hai inventato, balconieri, quelli che stanno al balcone, guardano e se ne fregano delle cose che succedono fuori. Sì, esatto. Ogni tanto tira fuori delle parole nuove. Mm. Ecco, rispetto alla pluralità mi sembra che questi tentativi che altre pitture fanno attraverso lo yoga, queste pratiche, non siano così da demonizzare, nel senso che è un loro modo comunque di assolutamente, umanizzare. No, certo. Assolutamente. Che forse non arriva alla pienezza del messaggio che noi abbiamo, però è comunque un cammino di umanizzazione, certo. Per cui se dobbiamo confrontarci, ci confrontiamo ma senza disprezzare queste, certo. Che in effetti possono aiutare determinate persone in un primo passo, certo. Certo. Per recuperare una spiritualità, certo. Un certo modo di... anche di essere in pace con se stessi per poi potersi aprire all'ospitalità. E... Certo. È qualcosa che fa Paolo Squizzato, no? Attraverso, lui adesso è molto lanciato su, sì. Tutte queste cose. Solo una cosa, giusto, che il criterio sia veramente l'umanizzazione. Sì, direi di sì. Appunto. Ma questo vale anche per il cristianesimo, cioè la cosa insieme. Cioè, se fatto onestamente. C'è appunto un punto in cui esattamente lì tutti dovremmo lavorare, e cioè cogliere se tutto questo percorso conduce effettivamente ad una condivisione di umanità. Perché torno a dirvi quello che vi dicevo prima, non è problema dello yoga o di una religione o di un'altra. Non dobbiamo solo essere ingenui nel ritenere che questo cammino di umanizzazione sia fondamentalmente abbastanza tranquillo. Perché il tema è, l'importante è che una determinata ricerca non diventi motivo di difesa, mi spiego? Perché potrebbe essere ricercato così, ecco, in questo senso. Allora, anche chi spiega, chi forma, dovrebbe sempre avere l'onestà di volere davvero il bene. Quindi, ma questo lo dico anche per il cristianesimo e per ogni esperienza religiosa. Quindi giustamente, no? Cosa dicevi? Il criterio che sia davvero quello, no? Che tutto aiuti a ritrovarci, sì. In questa prospettiva, dove senti che lì la vita rinasce, che direi è di più di star bene con se stessi. Attenzione a questa cosa. Certo. Io, scusate, ma su questo sono un attimo meno critico, ma perché non voglio demonizzare nulla, perché il cristianesimo stesso ha rischiato di diventare questo. Però se noi ritorniamo alla Bibbia, gli anticorpi per questo ci sono. Da altre parti bisogna fare uno sforzo un po' più forte, per non dimenticarci mai che non siamo umani se stiamo semplicemente bene con noi stessi. Ma se ci prendiamo cura gli uni degli altri, e a volte prendersi cura gli uni degli altri non vuol dire stare tanto bene. No, è una provocazione, ma mi sto spiegando, non voglio, ok, poi tutte le esperienze di ricerca sono nobilissime, però oggi c'è questo dato in più, che è un dato culturale trasversale, cioè la fatica che stiamo facendo nel riconoscere che umanizzazione non vuol dire semplicemente stare bene con noi stessi, per quanto questo sia un momento, ma è prenderci cura gli uni degli altri. Allora, se tutto questo ci sta servendo per arrivare lì, sta avvenendo qualcosa di grande. Ripeto, per ogni esperienza religiosa. Dovrebbe essere un passaggio, perché se non stai bene con te stesso, è un po' difficile essere... Può avvenire anche il contrario, può avvenire anche il contrario, Oh sì, quante volte che in realtà tu trovi la pace perché ti dedichi, anche se non sei né perfetto né sei così in pace con te stesso. No, ve lo dico perché io sento un po' i giovani, capite? Permettetemelo. E sento proprio un po' che questa volta è proprio un po' una tentazione. Non lo dico come cristianesimo, in generale. Perché scopri, per esempio, che ci sono alcuni che riescono a trovare una pace proprio perché non fanno questo lavoro intimistico, ma addirittura si dedicano. Cioè, lavorano con l'opera delle loro mani nella carità, nel prendersi cura, no? Anche con tutte le paure, quindi dentro sono molto ed è proprio questa cosa qui che permette loro di rimettere insieme i pezzi della loro interiorità e di trovare pace. Quindi perlomeno direi sempre le cose sono da ambedue i lati. Lo scautismo a noi ha insegnato che Dio ci ha messi al mondo per essere felici, ma la via per raggiungere la vera felicità è quella di procurarla agli altri. E questo era uno slogan che d'oggi in continuazione. Sì, Carlo, sì. Ti ricordi quando eravamo ragazzini? La felicità vera ce l'hai quando rendi felici gli altri. Ed è così. L'abbiamo sperimentato in questi anni, l'avevamo perso questo, se ci pensate, noi invece abbiamo colto che dentro quella frase c'è una saggezza che, ragazzi, ed è dura, perché insomma chiede molto quella frase lì, però. Certo. Ma i giovani di oggi, di che cosa hanno bisogno? Cosa possiamo dare loro? Un po' ho provato già a dirlo stamattina, insomma, poi... Viceversa sono loro che ci possono dare tanto, Certo. Può succedere anche sempre il contrario, quindi... No, per esempio c'è molta più, da questo punto di vista, molta più sensibilità, no? Per esempio su tutto l'ambito ecologico, no? Per esempio, poi ripeto, a volte in modo estemporaneo, possiamo dire quel che vogliamo, per esempio loro rispetto a noi hanno molto di più questa percezione del problema e non hanno anche timore, insomma, senza troppe parole, a buttarsi in questo, no? Io credo che davvero, rispetto a quello che dicevo prima, ogni volta che c'è una porta d'ingresso che permette di uscire, no? Quindi di dedicarsi a qualcosa che non sei tu, a mio parere quella può essere davvero una porta che conduce alla felicità. Perché ho davvero timore di queste situazioni in cui c'è qualcuno che non esce più di casa, E vi dico che la risposta è: ma perché non esci? Perché io sto bene con me stesso. Capite perché sono un po'... mi fa un po' paura questa... che deve essere capita bene. Eh? Io sto bene così. E lì è dura, Cioè riuscire a lentamente, poco per volta, a capire cosa è successo. Ancora qualcuno? Io ho sentito, dicevi, delle varie religioni in un'omelia che a me ha colpito, che ogni religione ha un suo messaggio, porta qualche cosa, quindi sarebbe importante riuscire a cogliere che tutti questi messaggi, che ognuno ha un suo carisma, detto così, e quindi è vedere il carisma di ogni religione. Il cristianesimo ne ha uno, l'orientale ne ha un altro, e se si riesce a prendere forse ci sarebbero anche meno divisioni. E questo io lo colgo anche nella formazione che ho fatto, che continuo a fare, anche qui che arrivava da un prete, e dove diceva che anche tutte le nazioni hanno un carisma, e ogni nazione ha questo carisma qua, che poi sia vissuto o no, hai ragione tu, è poi da vedere, però ognuno, infatti il popolo tedesco, hanno certe sensibilità che noi italiani non abbiamo altro, e così via. E anche adesso che tu parlavi dei giovani, sento che siamo di nuovo lì, loro hanno delle sensibilità diverse da quelle che abbiamo, quelle della mia generazione, e quindi se si riuscisse a dialogare, quello che tu dicevi prima, senza giudicare, ma ad ascoltare l'altro, entrare in relazione, e c'è uno scritto di Atenagora I, che aveva detto che anche lì, che la lotta più dura per lui era stata quella di con se stesso, per togliersi le varie paure di apparire, di essere migliore, e tutte le cose che gli venivano proposte, lui le accoglieva, non è che dicesse no, questa è una cavolata e niente, perché ho ragione io. E quindi era però accogliere, ascoltare. E quindi questo forse può essere quello che anche, diciamo, può aiutare a creare un mondo migliore, una vita migliore. Non è facile, come giustamente dicevi tu, perché entrano in gioco tutte le nostre difficoltà, tutte le nostre paure, ci sono tante cose, la difficoltà che abbiamo di accettare l'idea di un altro. Come diceva Carlo Molari, mi è piaciuto perché quello che è vero per noi oggi, fra 100 anni, sarà probabilmente una tutta un'altra cosa, ma se noi ci ostiniamo a stare lì così, alla fine non puoi costruire niente, non puoi creare nulla. Ed è la cosa difficile, è proprio questo, è questa accoglienza, questo non giudicare per me, ma entra in relazione con te, ascolta. Sul tema delle religioni credo che sicuramente, pensando all'ultima enciclica, la Fratelli Tutti, ma soprattutto il gesto che il Papa ha fatto a Ur dei Caldei, a mio parere rimane il top del suo magistero finora, è proprio interessante, perché poi paradossalmente anticipava purtroppo il problema che adesso vediamo con la guerra, no? Dove lì il suo intervento, se vi ricordate, è stato veramente molto forte, cioè ha preso a raccolta davvero noi rappresentanti delle grandi religioni e non come colui che no, vuole avere, no, tutt'altro, ma proprio per ribadire e rilanciare questo grande tema, proprio perché senza l'esperienza religiosa mancherebbe qualcosa di fondamentale all'umanizzazione. Allora, Papa è questo, non Don Gianluca, quindi criterio interessante, criterio di ogni religione è appunto la condivisione dell'umano. Questo mi sembra veramente, dal punto di vista del Magistero Pontificio, credo che non ci sia mai stato un pronunciamento così grande e così aperto, dove appunto il grande tema in realtà è la relazione tra le religioni che si gioca sull'umanizzazione, non, ma ecco lì, vuol dire, lì sentiamo che c'è qualcosa che ci accomuna davvero proprio in nome di Dio, quindi non lasciando a parte Dio perché è brutto e cattivo e strano, no, proprio qua è così fondamentale l'esperienza religiosa, qualunque essa sia, dell'uomo, no? Che è necessario che entrino in relazione. Questa cosa qui è ancora tutta da pensare, Magistero Pontificio, capite? Per evitare che addirittura in nome di Dio si faccia la guerra. Vedete in ambito cristiano questa volta cosa sta succedendo in Russia, Kirill e dintorni. Però, vedete? Cose tante, mondo. Però vedete, ci sembrano cose impossibili e sono veramente, e però avvengono, quindi allora cosa ci insegna sta roba qua, su cosa dovremmo insistere, cosa stiamo imparando, sono tutte grandi domande, non abbiamo risposte, no, però qualche direzione qui e là possiamo cominciare a dirci che vale la pena prenderle in conto, no? Se avessimo qui 20 o 30 giovanissimi preti e parlare di quello che hai detto tu adesso, è meglio. Qui mi taccio. No, ripeto, senza giudicare, ma vedete quanto è delicato il discorso? Vedete? Quando una realtà che per noi dovrebbe essere il massimo dell'ospitalità rischia di diventare di nuovo un'identità che ti difende. E guarda caso questo avviene più nella realtà giovanile anche per quanto riguarda noi donne. È da studiare questa cosa. Non possiamo solo dire, vabbè. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti, anche nelle vocazioni. Come hai fatto a salvarti tu che sei? Non lo so, ma io dico, no, non è perché sono qua, ma io penso che devo veramente molto al mio vescovo di allora, che si chiama Sebastiano Do. No, perché su questo lui è stato veramente un pastore molto grande su questo, e più ci penso e più è vero che, ma vale per tutti, credo, Don Giorgis, ma ciascuno poi ha la propria vita, il proprio racconto, no? Cosa può voler dire anche solo la persona giusta che incontri al momento giusto, no? Che ti indica qualcosa e poi non torni indietro. Poi magari molli un po', poi sbagli, poi vabbè, ok. Ma è vero che poi ciascuno di noi ha qualcosa, no? Come un cuore che non perdi, non so, e che non siamo noi ad aver creato, ma è sempre stato qualcun altro, no? Che, tornando a Stella Morra, che ci ha... Non lo so, io spero di salvarmi, poi non lo so. Bene. Se il giorno in cui sentite che dico delle robe strane, so, buttatevi qualcosa addosso e mi risveglio, insomma. Allora, grazie tanto, siamo felicissimi, tutti, credo, di averti conosciuto. No, e... gioia mia, no, veramente. Ci vediamo, non perderti di vista. Dai, bene. Se vuoi anche tu tenere, ti hanno dato le cose del sito, per sì, cui sì. Vedi un poco da... Benissimo, ottimo. Ricordo a tutti che il prossimo appuntamento è il 15 maggio con Sonia Ristorto, la Chiesa oggi tra la logica del mondo e la logica del crocifisso risorto. Ecco, quindi continuate. In un altro senso, in modo non nel senso di realtà umana, ma in